molto specifici riguardo appunto al marketing digitale, riguardo le vendite online, riguardo il mondo dell'e-commerce, riguardo le promozioni sui social network, imprenditori che hanno già acquisito queste competenze recentemente e che hanno deciso di condividerle online attraverso dei corsi di formazione. Ecco, puoi dare qualche consiglio, perché ovviamente essendo online dai qualche dritta di link. Per chiunque sia un artigiano amatoriale o professionale, consigliamo il nostro corso di formazione che abbiamo recentemente lanciato 6 mesi fa, che si chiama Rinascimento Handmade, che può essere appunto visto su rinascimentohandmade.com. Ci sono alcune anche lezioni gratuite che diamo appunto gratuitamente agli artigiani che vogliono scoprire i nostri servizi. E poi comunque abbiamo un nostro canale YouTube che si chiama sempre Rinascimento Handmade, in cui continuiamo a pubblicare video educativi e formativi specifici per gli artigiani. Questi percorsi per la formazione, insomma, della tua figura sono a pagamento, gratuiti? Ci sono dei percorsi gratuiti che noi appunto pubblicizziamo, perché sono comunque del materiale molto utile e appunto gratuito per diciamo chi vuole partire dalle basi, e poi per chi vuole approfondire i nostri insegnamenti, quindi entrare all'interno dell'Accademia del Rinascimento, che è il nostro corso di formazione, c'è appunto un contributo che viene richiesto per gli artigiani che si vogliono iscrivere a questo percorso. Siamo attualmente a più di 1000 artigiani iscritti, nonostante appunto il progetto sia stato lanciato da soli 6 mesi. Voi aiutate gli altri a fare questo salto ed è un rinascimento fondamentalmente della persona stessa. Da quali percorsi base devono partire le persone? Devono avere, come dire, formazione scuola dell'obbligo, scuole tecniche, oppure diciamo lauree? Da quali formazioni pensate siano utili i primi passi? Allora, non è necessario nessun tipo di competenza tecnica, diciamo, elevata. Chiaramente è molto importante saper utilizzare le basi del computer, perché ovviamente la creazione dell'e-commerce e poi il lancio delle promozioni sui social network verrà fatto attraverso il computer, quindi chiaramente è necessario un po' di dimestichezza con gli strumenti digitali, però appunto non sono richieste nessun tipo di competenze per avviare questo percorso, anche perché appunto i nostri corsi partono dalle basi, quindi insegnano proprio dalle basi, dall'inizio, quali sono le competenze che bisogna assumere. Quindi partite all'interno. Esatto. Del corso. Quindi in realtà appunto dalla A alla Z insegnate, insomma, questo mestiere di Artisan Digital Strategist. È un lavoro molto ricercato, dove si può trovare, oppure fondamentalmente è un aggiornamento dei lavori esistenti? Certamente, perché appunto la domanda di competenze, per esempio di competenze digitali, è molto elevata, moltissimi vogliono imparare per esempio a vendere online, e quindi c'è molta richiesta di questo tipo di lavoro, che è appunto il formatore, colui che insegna ad altre persone le competenze digitali, e appunto la domanda è molto, molto alta. Appunto l'abbiamo visto appunto sulla nostra pelle, che c'è moltissima richiesta. E anche per inserirli in aziende? Esattamente, sì, anche molte aziende stanno, diciamo, inserendo dei percorsi formativi online, quindi per appunto tenere appunto stretta la propria community che li segue per esempio sui social network. Quindi il lavoro del formatore online, che nonostante sia un lavoro molto, molto nuovo, sta crescendo sempre più rapidamente. E gli artigiani digitali, diciamo, stanno crescendo sempre di più, confermando questo rinascimento che in fondo è una bellissima epoca storica che forse stiamo vivendo oltre l'emergenza coronavirus. Ecco, che tipo di sviluppo vedi per il futuro della tua figura, anche magari incrementato da questa emergenza che abbiamo vissuto? Vedo un futuro, diciamo, floreo per tutte le attività che si spostano online. E il mondo digitale, l'abbiamo visto anche dopo questo brutto periodo della pandemia, è molto cresciuto, moltissime attività si sono spostate online, moltissimi consumatori hanno cominciato ad acquistare online per la prima volta, e quindi tutti coloro che riescono a collocarsi online nel modo giusto hanno sicuramente un buon periodo davanti, e quindi motivo per cui noi insegniamo appunto agli artigiani a spostare la propria attività al 100% online. Una curiosità, il fatto di lavorare in team a due, come gemelli, com'è? Sì, allora io e mio fratello abbiamo cominciato appunto 6 mesi fa insieme, appunto